Jai una bella kumba kaleše a fedeka, čanka kumane je kade slengue au čanda sa. E l'ambuscia vede c'è gala e a stu casa, spetta come legua cade. Oggi per Restiamo Animali è il quarto giorno del digiuno a staffetta che abbiamo indetto per sostenere la lotta di Davide Battistini, che a Ravenna non tocca cibo dal 1 gennaio scorso. Con questo suo gesto di lotta non violenta, Davide chiede alla regione Emilia-Romagna di introdurre una normativa che impedisca di tenere i cani alla catena, salvo limitate e temporanee eccezioni. Il nostro digiuno a staffetta è una forma di sostegno alla lotta di Davide, e molte persone si sono affiancate ai primi digiunanti, che sono stati i redattori di Restiamo Animali. Ho cominciato io, Lorenzo Guadagnucci, lunedì, martedì è toccato a Valentina Reggioli, ieri a Silvia Vallecchi e oggi digiuna la nostra Camilla Lattanzi. Molte persone si sono unite a noi e abbiamo così deciso di raddoppiare. Ogni giorno d'ora in poi due persone praticheranno il digiuno. Vi invitiamo a unirvi e a seguire gli sviluppi di questa lotta sul nostro blog restiamoanimaliwordpress.com e sul blog di Davide Battistini, scatenarediritti.blogspot.it. Sono al telefono con Damiano Gori di Prato. Damiano mi sta dando una bellissima notizia: il 2 febbraio 2013 apre a Prato un circolo interamente dedicato alla vita cruelty free. Un circolo vegan, si chiamerà No Cage, Nessuna Gabbia. Ciao Damiano. Ciao Camilla. Noi dopo anni che organizziamo eventi, manifestazioni, col maxi schermo contro le pellicce, contro McDonald's, insomma gli ambienti di bracconaggio e quant'altro, abbiamo sentito il bisogno di cimentare questo percorso per creare gruppo, creare un posto che fosse un punto di riferimento per noi e per gli altri in relazione all'antispecismo e al vegan. Nel nostro circolo compiremo tantissime attività come i corsi per la cucina, sul seitan, sul tofu, sull'autoproduzione, ma proiezioni, laboratori, una volta al mese al mercato del baratto, e continueremo anche con gli eventi come le manifestazioni che abbiamo fatto, però questo diciamo è una cosa che si amplia, faremo corsi di cosmesi naturali o aromaterapia, organizzeremo benefit, ne faremo uno il 9 febbraio per esempio per il Novel Squat di Torino Sgomberato, insomma è un'occasione per noi e per gli altri di creare un luogo in cui interagire, per chi è vegano è confrontarsi e magari per chi non è veg ma vuole associarsi, guardare un po' al di là delle solite abitudini e capire cosa c'è di sbagliato in certe pratiche di questa società. Il No Cage si propone come una risposta contro una duplice crisi, sia di valori sia economica. In questa società c'è una grossa crisi di valori, la gente tende più a chiudere gli occhi che ad aprirli, e c'è anche una grossa crisi economica. Noi cercheremo di mettere i prezzi più bassi possibili, di offrire gratuito, tutti i corsi saranno gratuiti, massimo offerta libera, e anche l'ingresso sarà sempre gratuito, massimo a offerta libera. Insomma, è perfino la tessera, costa solo 5 euro e ha validità un anno. L'indirizzo del circolo No Cage è via Borgo Valsugana numero 198. Mi dicevi, Damiano, che è proprio dietro alla stazione? Esattamente, è anche molto facile da trovare perché passare dalla stazione centrale di Prato ed è subito lì dietro. Il circolo, tra l'altro, che si propone come scopo principale di promuovere il vegan e l'antispecismo, lo farà sia all'interno del circolo, sia organizzando eventi al suo esterno, non solo le solite manifestazioni, ma per esempio adesso stiamo organizzando una cosa bellissima che ci ha appena dato il permesso del comune di Vignola, lo dico anche in anteprima. Si chiamerà Vegan Circus, sarà il 12, il 13 e il 14 luglio a Vignola, e per 3 giorni saremo vegani, insomma si dà un appuntamento lì anche non vegani per far capire quello che è l'antispecismo, che non è solo un fatto legato agli animali, ma nasce da un discorso contro la discriminazione sulla razza, sul sesso o contro il fascismo. Per il 15 giugno, che è la giornata internazionale contro i mattatoi, e faremo un grosso corteo nazionale a Firenze col maxi schermo di 12 metri quadrati in gemellaggio con Istanbul, Parigi, Toronto, un sacco di città, perché appunto è la giornata internazionale contro i mattatoi e noi la concretizzeremo con questa grossissima manifestazione. Damiano, ti sento bello carico, pieno di energia, sei pronto per l'inaugurazione di sabato 2 febbraio? Che cosa propone il programma? A che ora dobbiamo arrivare? Allora, noi cominciamo alle ore 19, ci sarà una presentazione del progetto No Cage, alle ore 19.30 proietteremo il filmato Sfruttamento Animale, poi ci sarà un grande buffet vegan e poi ci sarà il main event alle 23, i Kalashnikov, Kalashnikov Collective da Milano, gruppo vegan antispecista, romantic punk ed eccezionale, uno dei miei gruppi preferiti. Ti ringrazio Damiano, diamo l'appuntamento a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, curiosi, interessati o già convinti. Il 2 di febbraio 2013 è sabato a partire dalle ore 19 al No Cage via Borgo Valsugana 198 a Prato. Grazie Damiano e buona fortuna! Ma con vetta, becco te sei, a serva strigionco, mai un giandum, martingo papri, con la sedere, fengo de legne, anime in sé. Comba con vetta, becco te sei, a serva strigionco, mai un giandum, martingo papri, con la sedere, fengo de legne, anime in sé.